come se si potesse entrare tra le maglie di un tappeto e scomparire. Della tua cravatta basta, portami quegli altri bastardi che mi han ridotto a occhi bassi. Anna dice che sono cambiato, zitto violento. Quegli altri bastardi che l'han ridotto.